Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. I figli nati fuori dal matrimonio in Italia sono un esercito, 100.000, il 20% dei bambini. Questo provvedimento che finalmente parifica i figli naturali, cioè i figli nati fuori dal matrimonio, con i figli nati all'interno del matrimonio. I bambini nati fuori dal matrimonio potranno avere nonni, zii e fratelli e potranno essere riconosciuti, insieme o separatamente, dalla madre e dal padre, anche se già sposati con un'altra persona all'epoca del concepimento. Dibattuto tema dei figli nati dall'incesto. Dopo 60 anni il Parlamento dà ragione a Filumena Marturano, protagonista della commedia di Edoardo De Filippo ambientata nella Napoli del 1946. I figli sono tutti uguali. Senza attingere nelle radici più profonde della nostra commedia, della nostra tragedia, è senz'altro vero che il passo che è stato fatto ieri l'altro in Parlamento è stato un passo importante. Per la prima volta in Italia nessuno avrà più questa sorta di suggello d'infamia, perché per quanto si dica, per quanto i tempi sono cambiati, comunque non avere un certo riconoscimento di paternità comunque è discriminatorio, indubbiamente discriminatorio. È giusto che la legge a questo ha posto un provvedimento riparatore. Però naturalmente, anche in tutte le migliori intenzioni, ci sono degli aspetti che vanno approfonditi. È stata votata ieri l'altro alla Camera la legge che mette sullo stesso piano i diritti dei figli naturali e quelli legittimi, cioè nati all'interno del matrimonio, quindi il passo avanti è notevole. Però anche su questo c'è qualcuno che ha delle eccezioni da fare, e quindi questa mattina ne parleremo a Melog. Quanti di voi hanno comunque avuto questo problema nel corso della vita, conoscono persone o hanno un'esperienza particolarmente personale legata al fatto di essere nati o aver concepito figli al di fuori di un matrimonio legittimamente costituito? Beh, questa è la mattina per capire qual era l'aspetto drammatico di questa condizione e se realmente esistono ancora dei punti che vadano chiariti. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Gianetto Regassani, presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti, nel suo libro I perplessi sposi, a Liberty Editore, già da qualche anno aveva parlato di figli di un Dio minore, dicendo che noi italiani siamo campioni del mondo nel creare categorie e fazioni come guelfi, ghibellini, destra e sinistra, nord e sud, padri, madri, ammogliati, conviventi, etero e gay. Quindi sarebbe il caso, dice Regassani, un paio di anni fa, di porre fine anche a questa discriminazione fra figli nati dentro e fuori al matrimonio. Quindi sei soddisfatto e contento di questo passo avanti? Beh, sono assolutamente soddisfatto, felice. Forse anche il mio lavoro ha un senso in questo momento, perché lavorare in un paese in cui non vengono rispettati i diritti dei bambini significa essere anche avvocati di figli di un Dio minore, cioè un diritto minore. Per fortuna l'Italia è entrata in Europa da un paio di giorni, perché dobbiamo far sapere che da anni l'Europa ci aveva condannato per questa orrenda discriminazione. Per fortuna è finita e i bambini sono tutti uguali, tutti avranno gli stessi diritti, tutti avranno gli stessi parenti, la fitta trama di parentela che è fondamentale, e quindi finisce anche il termine, anche la questione terminologica che era terribile, e la doppia competenza giudice minorile per i figli naturali, giudice ordinario per i figli legittimi. Tutti i figli sono uguali. Nel nostro sito dell'AMI da anni campeggia un banner: i figli sono tutti uguali. Sono 4 anni che noi sosteniamo questa battaglia, noi avvocati, e credo che quando l'avvocatura si muove poi si riesce a fare tantissimo. Ecco, oltre all'aspetto proprio della dignità individuale, personale dell'essere umano, quali sono gli aspetti conseguenti, non solo dal punto di vista patrimoniale, del riconoscimento di alcuni diritti che si porta dietro questa legge? Beh, innanzitutto, prima fino a 2 giorni fa i figli naturali avevano soltanto genitori e nonni, ma non avrebbero mai potuto ereditare dallo zio d'America o da un cugino. Oggi i figli naturali ereditano come i figli legittimi e quindi sono riconosciuti anche da questo punto di vista. E quindi, a parte il grado di parentela, i diritti successori sono parificati e hanno poi praticamente la stessa tutela giurisdizionale che prima non avevano. Quindi oggi abbiamo giudici ordinari, quindi non il giudice del disagio che è il tribunale per i minorenni, perché è come se si pensasse che qualsiasi figlio nato fuori dal matrimonio fosse un disagiato da dover tutelare, coccolare, proteggere e quindi mandare davanti al giudice minorile. Nulla di più sbagliato, nulla di più assurdo. Tra l'altro le statistiche dell'Istat parlano chiaro: abbiamo un bambino su quattro che nasce fuori dal matrimonio. Circa 1,5 milioni di figli negli ultimi 10 anni sono nati al di fuori del matrimonio, quindi una popolazione enorme. Non so se hai visto l'ultima diciamo studio che ha fatto l'Istat. In Italia ci sono sempre meno sposi, i giovani scelgono sempre più la famiglia di fatto, quindi nel bene o nel male, volenti o nolenti, al di fuori comunque di ogni preconcetto ideologico di punto di vista, in realtà gli italiani stanno sempre più andando verso una forma di unione meno vincolata da sacri vincoli, quindi mi sembra che sia provvidenziale questo tipo di norma. Ma cosa accadeva prima? Facciamo degli esempi limite. Una famiglia sposata, dei figli concepiti all'interno del matrimonio, ma uno dei due coniugi ha comunque un figlio nato al di fuori del matrimonio. Questo è fratello adesso a tutti gli effetti dei figli nati nel matrimonio? Certo, non esiste più il fratellastro, è chiaro che non si tratta di un fratello germano, ma comunque è un fratello che concorre nell'eredità a un rapporto comunque di parentela che prima non aveva. Praticamente avere un figlio legittimo, un figlio naturale, fino a 2 giorni fa significava avere 2 estranei in casa che non avevano nessun tipo di rapporto. E quante migliaia e migliaia di famiglie italiane hanno figli legittimi e figli naturali sotto lo stesso tetto? Ma quante? Forse oggi parliamo quasi di 1 milione. Quindi, voglio dire, cambia completamente anche il rapporto tra fratelli. Possono chiamarsi fratelli anche se non fratelli germani, cioè di stesso padre e stessa madre, ma sono fratelli. Tanto poi la cosa fondamentale più importante, tanto vi prego di dare il vostro contributo, 800240024, cioè la cosa alla fine che, in cui si vede veramente lo spessore, la coesione dei vincoli familiari, degli affetti, degli amori, delle sacre istituzioni, e quando poi si deve spartire il patrimonio. A questo punto il figlio cosiddetto non germano, come abbiamo detto adesso, si trova davanti agli stessi identici diritti degli altri fratelli. Sì, ma scusa, purtroppo sto all'aeroporto e ci sono annunci di voli, non riuscivo a sentire. Sì, so che hai anche rimandato un volo per stare con noi, te ne sono molto grato. Sì, no, non ho sentito l'ultimo. No, volevo dire, a questo punto, tanto poi diciamo il re de razionem è quando si spartiscono le eredità. Cosa è cambiato rispetto a prima tra i figli nati all'interno del matrimonio e i figli nati fuori? Ma tra i figli cambia anche il fatto che uno può ereditare all'altro e quindi c'è un rapporto. Cambia il fatto che si possono tranquillamente definire fratelli e non fratellastri, perché si riconosce la stessa dignità all'altro. Poi la differenza tra figli germani e fratelli germani, no, questo è un problema di carattere biologico, ma dal punto di vista giuridico, due figli nati dallo stesso padre o dalla stessa mamma si possono tranquillamente chiamare fratelli e avranno gli stessi diritti rispetto a quel genitore. Quindi se diciamo scelto un vincolo che sia un vincolo di sangue e non un vincolo di istituzione, ecco. Bravissimo, esattamente questo. Il vincolo di sangue prevale su qualsiasi altra forma di famiglia, che sia sposata o di fatto. Non importa più il matrimonio da questo punto. Usiamo il termine genetico, così è meno arcaico. Il vincolo genetico. Che proviene dallo stesso ceppo di produzione, quindi a tutti gli effetti equiparato. Sentiamo qualche ascoltatore. Giorgio, buongiorno. Buongiorno dottore, intanto complimenti per la trasmissione. Io avevo 2 domande da porre. Una era, mi ha ispirato lei con l'esempio del Filomeno Maturano, cosa succede se il genitore al momento della nascita rifiuta la paternità? E la seconda, volevo porre anche un fatto salvo i diritti del bambino, che sono sacrosanti, però in qualche modo mi pare che se il genitore che ha concepito un figlio fuori del matrimonio diventi adesso in qualche modo colpevole di aver violato il diritto alla fedeltà stabilito proprio dal matrimonio, anche civilmente. Cioè, si spieghi. Quindi, meglio, facciamo degli esempi concreti. Una famiglia regolarmente sposata con figli. Il padre ha un rapporto amoroso con un'altra donna e concepisce un figlio. Questo figlio adesso è obbligato, diciamo, a dargli il suo nome e a riconoscerlo, dice questo. Su questo sono perfettamente d'accordo, però il padre se la cava così o è in qualche modo imputabile di qualche cosa perché ha avuto una relazione extraconiugale? Non è che può dire che l'ha concepito guardandosi negli occhi. Gianetto Regassani. No, non c'è nessun tipo di sanzione. Oggi l'adulterio e il concubinato mai non esistono da anni. Fare un figlio con un'altra donna, anche se la sposata, non costituisce alcun tipo di reato. Semmai ci può essere un illecito dal punto di vista della infedeltà coniugale, ma è un problema che riguarda i rapporti tra coniugi. Cioè da uno strumento alla moglie di un domani avere dei punti a favore in un'eventuale separazione. Sì, soltanto questo. Ma il figlio che nascerà sarà un erede come tutti gli altri, sarà il benvenuto nella nostra società, su questo non si discute. Ecco, come funziona, scusa Gianetto, visto che vedo le domande sono molto su questo fatto, io vado per esempio che mi sembra la cosa più semplice, una donna ha un rapporto d'amore con un uomo sposato, concepisce un figlio, questo figlio nasce, il padre non vuole assolutamente saperne niente, come accade nella maggior parte dei casi, dice ma boh, è un problema tuo, hai voluto tenertelo, tientelo. Questa donna, rispetto a quello che poteva fare una settimana fa, da oggi cosa può fare in più? Può chiedere il riconoscimento di paternità? Assolutamente sì, ma lo poteva fare anche prima. Sì, però qual è il passo avanti rispetto a prima? No, da questo punto di vista non c'è nessun passo avanti, perché in effetti anche con la legge dell'altro ieri, una donna che aveva concepito un figlio con un altro uomo diverso dal marito poteva chiedere il disconoscimento di paternità entro il sesto mese dalla data di nascita del bambino. Diciamo che prevale sempre di più e si fortifica con questa legge il principio di verità rispetto al principio di legittimità, cioè secondo il quale ogni figlio nato nel matrimonio si presume del padre. Sta perdendo colpi questo principio che millenario che abbiamo mutuato dal diritto romano, anche perché si sa che ormai i figli concepiti da infedeltà coniugali sono una popolazione fortissima, quindi la legge è corsa ai ripari. E diciamo che disconoscere un figlio è molto più semplice, sarà molto più semplice, ovviamente si cercherà sempre di cautelare il bambino, ma qualsiasi mezzo di prova sarà sufficiente per dimostrare chi è il vero padre e chi effettivamente deve occuparsi di quel figlio. Sentiamo Dino. Dino, buongiorno. Buongiorno. Vi disturbo e vi ringrazio soltanto per ma disturba, falso dovere di ascoltatore telefonandoci sì, e dandoci sì, un contributo. No, non c'è dubbio, è che questo è un argomento molto... molto sostanziale. Io ho vissuto diverse disgregazioni familiari a monte, non mie ma delle mie famiglie di origine, diciamo di mio padre, di mia madre, di tutti i genitori che poi si sono riaccoppiati con mio padre e con mia madre, e ho vissuto l'esperienza di una seconda sorella nata fuori dal matrimonio originario da cui io ero uscito. Secondo me normare, la faccio breve perché altrimenti penso che non ci siano i tempi, ma secondo me normare oltre quello che già c'era, io credo che sia una grande opera di difficoltà per coloro che vivranno in concreto queste cose, per un semplice motivo, perché nessuno si rende conto che la norma è la norma e può essere giusta quanto si vuole, ma il trascorso poi personale di ciascuna persona e di ciascun genitore, a sua volta con tutta la rete parentale, mette in un grandissimo ambascio il bambino, perché il bambino non è concepito, diciamo, per essere così, non è un prisma dove picchia una luce e vengono fuori mille finestre di colori. Il bambino invece ha bisogno di una riferibilità e questa riferibilità viene a mancare. Secondo me, qui termino, è come il discorso tra due persone: che cosa è importante nella disgregazione familiare per il bambino? L'unica cosa importante è la non conflittualità. Se non c'è conflittualità, il bambino cresce e viene sano. Sì, ma non trova che sia un punto a favore per una persona che almeno adesso non ha più questa onta, che permane come tale, inutile dire ci siamo civilizzati, di non avere un padre, di essere figlio soltanto di una madre nubile, ad esempio? Siamo d'accordo, però purtroppo in certi casi ubi maior minor cessat, a mio parere. Cioè significa? Spieghi meglio. Significa lo so, ma in questa fattispecie cosa vuol dire? In questa fattispecie significa... Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. No, per carità di Dio, io le parla una persona che ha nella sua sorellastra, come bruttamente si dice... Ma adesso non può più dire sorellastra, adesso sorella tutti gli effetti. No, d'accordo, ma faccio per farsi capire. Io, anzi, noi siamo una famiglia molto unita, dove proprio i figli nati da matrimoni diversi hanno tenuto unito più nuclei familiari. Ma voi siete fortunati, non è sempre così, sì. Però. No, non siamo solo fortunati, mi perdoni. Sono stati bravi i nostri genitori e siamo stati bravi ad applicarci noi. Perché nella vita nulla è per caso, questo a mio parere. Sì, hai ragione. Forse il termine fortunati non va bene, ma diciamo è una situazione felice che non è sempre riproducibile in tutte le situazioni. Gianetto Regassani. Io credo che il problema è la rivoluzione soprattutto culturale, non è soltanto giuridico-giudiziaria. Il fatto in Italia di fare categorie di figli, unico caso in tutto... Europa, beh, insomma, la dice lunga anche sul dogma molte volte religioso che ha prevalso sulla nostra legge. Io credo che ubi maio minor cessat, riguardi semmai il varo di questa legge. Meglio che ci sia questa legge con tutte quelle che possono essere le negatività, ma non credo che alla lunga queste saranno devastanti per i ragazzi, anzi credo che da questo momento per le nuove generazioni si apre un capitolo nuovo di assoluta civiltà nel nostro paese. Allora, già detto, visto che non sto riuscendo a contattare l'onorevole Binetti, che era, diciamo, il personaggio che ha maggiormente posto posizioni critiche rispetto a questa legge, ti domando a te quello che è emerso, per farti capire, da titoli di alcuni giornali, che dà il segno dell'opposizione alla legge. La legge che marchia i nati da stupri e incesti. Parificati i figli e figliastri, ma parificati anche i figli nati da incesto e da stupro. Mi fai capire meglio questa posizione, che la trovo un po' fumosa, sinceramente. Io credo che anche in questo ci sia stata una grande imprecisione da parte degli oppositori. Allora, la legge dice che il giudice può decidere di far riconoscere un figlio incestuoso ai genitori, può significa di valutare caso per caso. Non credo che il giudice farà riconoscere i figli incestuosi in casi di violenza o in casi di sopraffazione o quando quella famiglia non dà segnali di un minimo di dignità. E quindi io credo che fondamentalmente si tratti di una polemica assolutamente infondata. Bene ha fatto il legislatore a consentire anche a qualche figlio incestuoso in contesti familiari particolari di essere riconosciuto. Attenzione, non si parla di un riconoscimento automatico, ma ci sarà sempre il vaglio di un tribunale, quindi con tutte le cautele del caso. Certo, mi rendo conto che è scottante l'argomento di però è un argomento da affrontare. Tu hai qualche idea? Perché a me sembra, non credo che siano dei numeri così preponderanti da far riflettere un legislatore. Cioè, io come era posta la cosa? Pensate che orrore. Una figlia che concepisce un figlio per uno stupro del padre, poi avrà il nome di questo padre. Mi sembra un caso molto limite. Sì, ma infatti è anche un modo per spettacolarizzare e spaventare. E per rendere anche strumentale un passo avanti che vorrebbe che rimanesse tutto come una volta. La storia è piena di grandi uomini e condottieri che avevano figli incestuosi, insomma non sono neanche così malati come si dice, perché attenzione, c'è anche un retroterra culturale e scientifico del tutto falso e infondato, cioè che tutti i figli incestuosi siano dei pazzi, dei malati, gente da rinchiudere, non è così, quindi anche dal punto di vista scientifico si è smentita questo assunto. Attenzione, quando si vuole sostenere una tesi si è capaci di inventarsi addirittura la scienza. Quindi ben venga anche questo tipo di apertura, ovviamente con tutte le cautele che i giudici dovranno adottare. Quindi non è questo, diciamo, il punto forte, il punto che doveva far riflettere di questa legge. Un figlio nato da una madre infedele eredita sia dalla famiglia della mamma che da quella del padre naturale? A questo punto assolutamente sì, saranno entrambi responsabili. Quindi c'è una certa convenienza avere la madre, diciamo, di comportamento allegro, a questo punto di vista. Ma voglio dire, quando tu metti al mondo un figlio, anche se si tratta di un figlio avuto da un uomo che non è tuo marito, quell'uomo sarà il padre di quel figlio e tutti e due dovete provvedere in pari misura al mantenimento di quel figlio, e quindi a mandarlo a scuola, a pagare le tasse, a farlo crescere. Quindi ci sono poi degli intrecci incredibili, cioè di uomini o donne che devono mantenere figli legittimi, figli nati fuori dal matrimonio, che devono andare a parlare con i professori del figlio legittimo e dopo vanno a parlare con i professori del figlio naturale. Beh, poi chiaramente poi ognuno si assume le responsabilità. Alla legge non interessa questo, alla legge interessa che quei figli naturali vivano allo stesso modo dei figli legittimi. Poi è chiaro che ci sono poi delle ricadute economiche, delle tragedie, separazioni, divorzi, ecco, non è che tutto questo lo vediamo come una storia del mulino bianco. Spesso dietro la nascita di figli naturali ci sono tragedie, ci sono separazioni, ci sono divorzi, ci sono richieste di risarcimento danni, su questo non c'è dubbio. Però tutto questo è all'atere. Quello che importa è che quel figlio abbia un nome, un cognome, un diritto successorio e una identità sociale definita. Sì, perché anche giusto, poi la sua storia individuale non debba essere sempre condizionata dalle vicende sentimentali, dalle undivaghe passioni dei genitori. Luciana, buongiorno. Buongiorno, grazie dottor Nicoletti di avermi dato voce. La mia domanda era questa. Non mi è costato nulla. Grazie. Senta, la mia domanda era questa. La legge comprende anche gli affiliati? La domanda è per questa ragione. Io sono stata affiliata da mio padre, che era mio padre naturale, perché lui era sposato civilmente con una donna da cui ha avuto una figlia, poi si è separato di fatto da questa donna, successivamente ha incontrato mia madre e sono nata io. Mio padre ha avuto sempre un gran cruccio di non potermi dare il suo cognome, finalmente ha potuto affiliarmi e io ho avuto il suo cognome, non c'è stato nessun problema. Quindi lei è già a posto da questo punto di vista? Sì, da questo punto di vista sì, sono a posto, ho 69 anni, quindi voglio dire, non c'è nessun problema per nessuna ragione. Non le cambia più la vita, diciamo. Non mi cambia la vita, sono sposata, sono nonna, eccetera, eccetera. E allora qual è il mio problema? Per il mio quelli problema... come lei, diciamo, nel ecco. futuro, vuol sapere. No, voglio sapere per questa ragione. Mio padre desiderava essere sepolto in un certo posto. E fino adesso, nei confronti di quella che è oggi mia sorella, io non potevo far valere... Ah, stringa. Lei dice, lei vorrebbe ridisseppellire il padre, portarlo dove lui voleva, sì, mio padre contro la volontà di sua sorella. Temporaneamente a Roma, ma la sua volontà è di essere sepolto in un altro luogo, nelle Marche. Ma mia sorella si opponeva a questo desiderio per... pura cattiveria. Beh, fermiamoci qua. Anche... Gianetto, quest'ultima domanda. Questa signora già è pronta con la vanga in mano, vorrebbe riportare il padre nel posto legittimo. Ma ha qualche titolo in più rispetto a prima oppure no? Dipende se il padre ha lasciato una dichiarazione nel testamento oppure ha dichiarato di voler essere sepolto in un determinato posto, altrimenti... Non può soltanto come... pura testimone di una volontà opporsi alla sorella e non cambia nulla rispetto a prima. Uno di quei tre è figlio a te. E chi ti crede? Ma state zitta. Ti potevo dire che erano tutti e tre figli tuoi. Ci avresti creduto, te lo facevo credere. Ma solo uno è figlio tuo. Non è vero, non può essere vero. Me l'avresti detto allora, per tenermi legato. Legato tu? Me l'avresti fatto ammazzare. Solo per me è vivo. O figlio tuo. E qual è? Non mi ricordo. Per me sono uguali tutti e tre. E sono uguali, sono figli tuoi. 800024, la vicenda nota che fa parte del nostro drammatico repertorio di Filumena Marturano, è stata sollevata più volte come elemento, come case history fondamentale che porta a giustificare o in certo senso a proclamare la legge di cui stiamo parlando come un passo avanti nel riconoscimento di pari dignità e pari diritto di esistenza ai figli nati sia dentro sia fuori dal matrimonio. Ma questa legge di cui stiamo parlando questa mattina, abbiamo detto, però presenta dei punti perlomeno di perplessità, non certo da parte di chi l'ha sostenuta e la considera appunto un risultato storico, come l'onorevole Giulia Buongiorno, che è avvocato penalista. Onorevole Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Ecco, lei è d'accordo che questa legge sia stato un passo avanti anche rispetto a tutte le perplessità che sono state poste? Darebbe una sorta di riconoscimento giuridico anche ai figli nati da stupri, da incesti, da situazioni terrificanti? A me spiace il fatto che si focalizzi l'attenzione su questo aspetto in maniera forse non del tutto corretta, quindi approfitto dell'occasione per chiarire. Non è che questa è la legge che giustifica gli stupri e che consente al violentatore di riconoscere il figlio, perché altrimenti non sarei assolutamente entusiasta di questa legge. Questa è una legge che da un lato, come diceva lei, equipara figli naturali, figli legittimi in generale. Poi per quanto riguarda specificamente il punto di figli che sono di figli incestuosi, quindi ovviamente può essere che frutto di violenza o meno, in questo caso, di volta in volta, il tribunale verifica nell'interesse del minore se ci può essere un riconoscimento o meno. Io non riesco a comprendere perché sul figlio incestuoso, che ovviamente non ha la colpa di essere figlio dell'incesto, dovrebbero ricadere le conseguenze dell'incesto. È proprio il fatto che ci sia il filtro del tribunale che mi tranquillizza, perché il tribunale, se vede che chiede il riconoscimento il violentatore che non eserciterebbe nessun tipo di educazione idonea, non darà mai riconoscimento. Eppure questo è stato proprio il motivo che ha fatto rischiare quasi che questa legge non riuscisse a passare per questa legislatura, chissà poi per quanto tempo sarebbe rimasta arenata. Sentiamo l'onorevole Paolo Abinetti, che è la persona che forse si fa maggiormente portatrice di quest'altro tipo di distanza. Onorevole Abinetti, buongiorno. Allora, prima di tutto condivido in in abbondanza tutte le cose dette dall'avvocato Buongiorno. Io stessa ho presentato un disegno di legge in questo senso, che è confluito nella legge approvata ed era quella che noi avevamo votato con assoluta unanimità a giugno del 2011. Il blitz del Senato, che ha voluto inserire questo passaggio sui bambini che nascono dall'incesto, è qualcosa che invece io valuto in modo un po' differente. Perché lo chiama un blitz? Finalizzato a cosa, onorevole Binetti? Beh, il blitz è perché è stato praticamente un emendamento inserito al Senato all'interno di una legge che aveva già goduto dell'approvazione generale del Parlamento, della Camera. Quindi voglio dire, il Senato avrebbe potuto approvare questa legge così come noi gliel'avevamo consegnata, che già aveva tutti gli elementi di positività che ha descritto adesso l'avvocato Buongiorno. Erano tutti presenti nel disegno di legge del giugno del 2020. Ma lei individua in questo una sorta, al di là dell'aspetto puramente legislativo, legata a un contesto più ampio, non so, di ideologia, di costumi che stanno cambiando, di caduta e di una certa tenuta? Guardi, io voglio dire soltanto una cosa, che il sistema familiare nostro, anche il sistema allargato, si regge su una serie di riconoscimenti specifici di ruoli. Non a caso quando si parla di incesto si parla di un tabù, no? Cioè si parla di una barriera che prima ancora che il senso etico, è proprio il senso, come dire, affettivo, il senso, diciamo, il riconoscimento dei ruoli che ti impedisce che di pensare che chi ti ha generato generi con te altri, no? Cioè è proprio appartiene. Io quando ho fatto il mio intervento in aula ho cercato di citare come una delle più belle pagine della tragedia greca gira tutto intorno al tema dell'incesto, mi riferisco al ciclo. Ma questo come fa, onorevole Benetti, andarlo a dire poi ai milioni di persone che non possono essere più chiamati né fratellastri, né figli bastardi, via dicendo? No, ma lei sta travisando il mio pensiero. Come le ho già detto, c'è tutto, non solo una parte importante di questo disegno di legge, ma io stessa, cioè lì agli atti, nel frontespizio della legge, c'è scritto anche il disegno di legge Binetti, eccetera. Quindi io di questo sono totalmente favorevole e sono contenta. Quindi lei è d'accordo che comunque un passo avanti è stato fatto con questa legge? Sono d'accordo, però ritengo che il vulnus che è stato inserito è un vulnus pericoloso, anche perché le voglio dire, ci sono solo due possibilità nell'incesto. Uno, che la figlia sia stata violentata dal padre. Due, che la figlia fosse consenziente con il padre. Nell'una e nell'altra situazione a me sembra che c'è una turbativa di clima psicologico, prima ancora che morale, che meritava, diciamo, una distinzione molto forte o comunque poteva essere tenuta totalmente al di fuori di questa legge, che già di per sé copriva degli obiettivi importanti e ci si poteva sentire più che soddisfatti dei passi avanti che la legge faceva. L'aver voluto inserire, nonostante tutto, questo passaggio significa aver trascurato quello che comunque in una, come potrei dire, cultura secolare che attraversa spazio e tempo, il tema dell'incesto ha rappresentato come una barriera. Sentiamo un attimo l'avvocato Giannetto Regassani, che è esperto appunto avvocato matrimonialista, che poi è caduto in questo momento, avrei voluto sapere il suo parere tecnico. Ma lei non trova che questo impedimento sollevato avrebbe poi fermato l'iter della legge e magari se ne sarebbe riparlato chissà fra quanto tempo? Ribastava semplicemente votare quello che era stato proposto anche dall'onorevole Buttiglioni, che era lo stralcio di quel punto. Tutto qua. Se noi avessimo stralciato quel punto o comunque votato contro quel punto, non c'era problema. Se ne sarebbe eventualmente, il tema dell'incesto sarebbe stato oggetto di un dibattito molto più ampio e molto più attento. Quindi invece è passato come una sorta di cosa che si è inserita tra le maglie di una buona legge per fare un cattivo servizio, le voglio dire, ma nemmeno sul piano statistico, perché fortunatamente io credo che padri stupranti e incestuosi, cioè fortunatamente nella nostra cultura, veramente li contiamo sulle dita di una mano o poco più, credo. Credo però che è il principio, che è quello della sacralità dei vincoli familiari, per cui riconosce a un padre nella responsabilità nei confronti della figlia e nella fiducia assoluta. Quindi lei, onorevole Binetti, fuga ogni legittimo e forse maligno sospetto che in realtà sia stato portato avanti il fantasma emotivamente molto forte, lo stupro dell'incesto, per fermare una legge che a tutti gli effetti dà la stessa valenza di esistenza a chi è nato fuori dal matrimonio che dentro il vincolo. Lo domando. Qualcuno l'ha sollevato in aula e io le voglio dire che lo considero una grande sciocchezza, anche perché, per esempio, lo stesso, io che pure ho le mie perplessità sul riconoscimento dell'unione di fatto, tanto per farne un esempio. Vabbè, questa è la sua posizione nota, non è chiaro. Viceversa, ho una totale attenzione a questa sorta di parità di diritti, parità di opportunità che c'è tra tutti i figli. Cioè, non a caso io ho presentato il mio disegno di legge che riconosceva il valore della famiglia non solo nell'asse genitori-figli, ma proprio nell'insieme delle relazioni che definiscono i rapporti con i nonni, i rapporti con gli zii, i rapporti con i cugini, i rapporti con i fratelli. Per dirle, a mio avviso, la ricchezza della famiglia, anche in un contesto sociale che cambia, deve essere più sempre quella di tutelare i legami interni alla famiglia. Lei aveva visto, onorevole Binetti, oggi i giornali sono pieni dell'ultimo rapporto dell'Istat che in Italia in realtà la famiglia di fatto pare che sia la scelta più frequentata dai giovani, soltanto al sud esisterebbero i matrimoni tradizionalmente concepiti in chiesa con tutti gli effetti. Da questo punto di vista io le dico che mentre io considero parità di diritti per i bambini, veramente parità di diritti, considero invece che non ci sia parità di situazioni per gli adulti, perché l'adulto è di gran lunga più consapevole quando fa la sua scelta, prende una sua decisione e cavalca il modello che preferisce, e ha il diritto a cavalcare il modello che preferisce. Però ritengo che da questo punto di vista il governo, quello di destra, quello di sinistra, il governo tecnico, il prossimo governo dovrebbe fare molto di più per riconoscere a quelle famiglie che si assumono la responsabilità, chiamiamola così, della fidelizzazione dei vincoli, cioè quelle che si assumono la responsabilità forte nel tempo della loro stessa capacità di prendersi cura l'uno dell'altro, meriterebbero aiuti molto più importanti. Comunque è stato importante questa mattina, onorevole Binetti, fosse chiarito questo punto, che non ci rimanesse il sospetto, ma che lei, devo dire, ha fugato, che in realtà dietro l'aver sollevato l'aspetto degli stupri, degli aspetti più truculenti legati alla possibilità di avere un figlio all'interno del matrimonio, non ci fosse appunto una non tutela dei figli nati fuori dal matrimonio. Lei ci ha confermato che invece questa mattina l'attenzione era tale, se non pari, anche per lei riguardo appunto a questo problema. Grazie onorevole Binetti. 800 24 00 24, molto velocemente, prima che l'assistente di volo gli faccia spegnere il telefono, Gianettore Gassani, presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti. Gianettore, mi chiedono molti ascoltatori, so già quale sia la risposta, ma diamola per sicurezza. Questa legge intende anche i figli adottati, non mi sembra? Sì. Ah sì, ah beh, vedi. Ma comunque sì, anche i figli adottati, perché anche loro in qualche misura erano discriminati. In questo momento anche per i figli adottati si apre un nuovo spiraglio. Tutti i figli sono uguali, questo è il motto. Rispetto a quello che ha detto l'onorevole Binetti, che almeno ha dissipato il sospetto ci fosse l'idea di far frenare e naufragare la legge, il tuo commento? Ma io credo che ovviamente rispetto alle posizioni dell'onorevole. Sì, ma sono poi note, non è che sono nascoste. Anni. Io credo che insomma bene ha fatto il legislatore a far entrare dalla porta di servizio anche la questione dei figli incestuosi, perché sarebbe rimasta appesa una questione anche questa che purtroppo dura da millenni. Abbiamo risolto tutte le questioni, adesso dobbiamo anche culturalmente abituarci a questo nuovo modo di intendere il diritto di famiglia. Capisco che siamo a caldo, che ci sono ancora delle persone che si leccano le ferite per quelle loro sacrosante battaglie, che io comunque posso capire, ma credo che dobbiamo invece festeggiare noi da questa parte quando abbiamo visto finalmente uno spiraglio di un'Italia che sta entrando in Europa. Tutti i figli sono uguali, questo è il motto. Quindi anche in una questione molto delicata e molto specialistica bisogna tenere conto di tutte le fattispecie. Una persona violentata e stuprata anche da un consanguineo deve avere comunque il diritto di poter scegliere se il figlio nato da questo atto senz'altro scellerato debba avere il cognome del legittimo padre. Questo vorresti dire? Assolutamente sì, ma c'è sempre il controllo di un tribunale. Io capisco che per i figli incestuosi c'è una questione molto spinosa, ed ecco perché bene ha fatto il legislatore a sottoporre al vaglio del tribunale ogni caso, perché ogni caso fa storia a sé. Quindi ci sono casi in cui l'incesto indubbiamente non può seguire poi un riconoscimento, altri casi in cui è possibile. Quindi perché non consentire anche a un solo bambino su 10.000 di avere un padre e una madre da un rapporto incestuoso. Sì, senza porre, diciamo, questioni bibliche a monte. Io sto trattenendoti perché voglio sentire l'assistente volo e ti dica spenga quel telefonino. Sì, sono già ormai quasi proprio nell'apparecchio, in aeroplano. Ah, bene. Gabriele, Gabriele, buongiorno. Buongiorno, spengo la radio. Sì. Sono leggermente emozionato, l'ascolto da 10-15 anni almeno, la ringrazio, ringrazio lei e meno scusi la frase fatta. Fortunatamente c'è Radio 24, ve lo devo. Io sono un padre, un cinquantenne, sono suo coetaneo, separato da 10 anni, e il tribunale di Rimini, che mi ha seguito nell'iter massacrante di una CTU, ci ha radiografati a me e la mia moglie separata per 2 anni, non riesco a vedere mia figlia né a sentire al telefono perché mia moglie non lo permette. Premetto che io ne ho pieno titolo, ho risultato, diciamo così, tra virgolette, perfetto, immacolato dalla CTU. Capisco il suo dramma, ma con l'argomento di oggi non c'entra, certo, molto. No, mi faccia finire, abbia pazienza. Sì. Di che cosa stiamo parlando? Tutti i figli sono uguali, tranne quelli dei padri separati. Facciamo le leggi e poi il giudice fa quello che vuole. Sì, mi hanno dissanguato dal punto di vista economico. Sì, capisco il suo dramma. Certo, ma l'argomento è un argomento che abbiamo trattato altre volte. Non è pertinente. Oggi non parliamo di padri separati. Capisco il dolore e mi dispiace deluderla dopo 15 anni che mi ascolta. Si sentirà frustrato, ma lei ha trovato uno spiraglio per riparlare dei padri separati. Qua abbiamo parlato con l'avvocato Gassani un'infinità di volte. Oggi dedichiamo questa trasmissione ai figli nati fuori dal matrimonio che finalmente sono equiparati ai figli nati all'interno del matrimonio. Francesco? Francesco? Sì, pronto, buongiorno. Ecco. Sì. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori, buongiorno. Dunque, io sono un avvocato penalista e mi occupo anche di tutela di minori. Un plauso ovviamente all'approvazione di questa legge, per quanto ovviamente di mia modesta ed umile competenza. Mi preoccupo però dell'applicazione pratica, dell'interpretazione poi che di questa legge si troverà nelle aule di tribunale, perché ovviamente quando si ha a che fare con questo tipo di argomento, con questo tipo di problematiche, è sempre difficile attagliare il tutto al caso. Cioè, ci potrà essere impugnato comunque il riconoscimento, cioè la richiesta di riconoscimento da parte di un figlio fuori del matrimonio dagli altri figli? Guarda, quello che io reputo e ritengo è che il diritto di un minore, e come si è detto prima, debba essere superiore a qualsiasi tipo di conflittualità. Quello che mi preoccupa è che per casi simili non si possa poi trovare in una situazione ed in un ambito così importante, fondamentale anche per i rapporti sociali, la stessa definizione del problema. E questo è quello che mi preoccupa. Gianetto, se ancora puoi parlare, le perplessità del tuo collega, me le puoi spiegare meglio? Cosa teme che possa accadere? Francamente non so, una volta fatta legge non credo che nessuno possa opporsi dei figli cosiddetti legittimi prima rispetto al diritto di riconoscimento di quello che era nato fuori dal matrimonio. A parte che non ho sentito neanche la domanda. Dice che potrebbe creare dei problemi, un avvocato penalista, potrebbe creare ulteriori problemi questa legge. Ogni legge non è mai perfetta, ci possono essere sempre i punti deboli di una legge, ma noi stiamo parlando del principio, no? Poi su quelli che possono essere gli inganni di ogni legge. Il principio è sacrosanto, ma non so se si riferisce ai figli incestuosi o in generale. No, in generale, figli, diciamo, nell'ambito, diciamo, di... No, se ne tieni 99 cose positive e forse una negativa, come in tutte le cose che io, nelle quali credo, quindi non, francamente non mi porrei questo problema. Pensiamo a tanti bambini che oggi festeggiano e non devono chinare la testa davanti ai figli legittimi, a questi principi che praticamente la facevano da padrone nelle famiglie. È giusto che anche i figli naturali possano camminare a testa alta. Attenzione, non è soltanto una questione di eredità o di soldi, è una questione anche di identità. è anche una questione di parità psicologica. Non a caso tutte le favole tradizionali sono basate su un figlio legittimo e su una Cenerentola che comunque deve sempre patire le angherie, chiaramente nella drammatizzazione di una favola, di quelli nati legittimamente. Questo dimostra che anche nell'immaginario comune su cui è basata tutta la nostra cultura e la nostra formazione, in realtà c'era il problema che ci fossero figli di serie A e figli di serie B. E questa legge... L'80% dei figli naturali non nasce né da tradimenti o da altro, nasce da storie d'amore di coppie di fatto. Quindi attenzione sempre ad etichettare il figlio naturale come figlio di qualche responsabilità o di colpa. I figli naturali sono delle scelte ben precise, programmate da milioni di persone che convivono. Quindi si tratta di nuove famiglie che si stanno affacciando e sono figli che quindi sono desiderati fortemente dai genitori e non sono incidenti di percorso. Attenzione, l'80% dei figli nasce per scelta da coppie di fatto. Diciamo che l'incidente di percorso più facile che accada all'interno del matrimonio, se proprio vogliamo dirla tutta. Gianetto, io ti ringrazio, ti lascio al tuo volo tranquillo, sei stato molto cortese questa mattina di darci tempo fino all'ultimo brandello. Ringrazio anche a tutti gli ascoltatori che hanno partecipato, ringrazio Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. A domani.